forte di ossigeno. Uno, via. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Per te sono importanti gli oggetti? Certo che sono importanti. E io c'avevo, o ce l'ho ancora anche, un orologio a pendolo che tutti gli anni è alto un paio di metri, finché pigliavo la scala, lo andava caricato e lo rimettevo. Quando era preciso, ma quando cambiava orario andava rimesso a mano, si girava le lancette a mano. Le lancette di quell'orologio è bello, ce l'ho ancora a Castelfranco. Era del 1872 la mia nonna, era subito questo. Io, siccome da piccino l'avevo fatto, ci avevo usato, poi l'ho ripreso. E chi me l'aveva visto, ma lo sai questo corallo qui ha un valore, mi dice anche dove c'è di essere franco, ti do 10.000 lire, dice, me lo vai, no, mi dice, no. Allora poi questo pezzo di corallo lo feci a una mia amica, me lo feci, lei lavorava loro, me lo feci rinfilare, lei lo prese, lo lavò nell'olio, lo lavano nell'olio per lavarlo. E me lo infilò tutto, lo portai in camera, non me lo sono mai messo. Una volta me lo misurai, appena me lo misi, mi vinci su andare via i cicci. O come me l'ha fermato, lo rimisi lì, mai messo, ho perso tutto, mi hanno portato via tutto. Tutto quello che c'avevo in casa. I braccialetti della mia di Torino. Bruna 5 cerchi, a tutti e tre non mi fosse, ci aveva regalato questi braccialetti a cerchi faccettati, erano tutti faccettati, bel, ho perso tutto. Quelli non li sono messi, ma poi volte, qual è le volte che io mi partivo da casa per mettermi i cerchi? Bracciale. Ti va di raccontarmi perché è speciale? No, perché me l'ha regalato una persona che non c'è più. Quindi io lo tengo lì per ricordo e ogni tanto me lo metto. Ora no, perché è inverno, se no sì, lo perdi anche. Però quando viene l'estate me lo metto, un bracciale così un po' strano. Io se tu lo vuoi vedere te lo faccio vedere, te lo fa vedere, ma tanto me lo metto quando comincia poi l'estate, me lo metto, invece ora vedi con l'inverno, tutti quei cosi, non lo sai se lo perdi, invece d'estate te lo metti e te lo senti sulla pelle, perché questa persona io l'ho nel cuore perché non c'è più e quindi lo tengo caro per questo. Quando mi pare me lo metto, quando mi pare me lo levo, capito? Insomma, io sono fatta un po' così. Sono fatta un po' romantica, ma non si deve più essere romantici. Come mai? Perché ho un mondo di mezza. E non c'è posto per i romantici? No. bisogna ritagliarcelo un po' di posto, però, perché bisogna starci, sì, anche noi. Ora ti hai ragione, te ci avrai un amore, un uomo, non lo so, però non si può vivere sempre di ricordi. Poi ti viene a noia, non te lo metti neanche più un foglio. Però me lo metto in tasca e come ho occasione di vederti, te lo faccio vedere. Ti ringrazio tanto, Marina. E ci puoi scrivere anche che è mio. Quando cambiava radio andava rimesso a mano, si girava le lancette a mano, le lancette di quell'orologio, è bello, ce l'ho ancora a Castelfranco. Oh.